Mayón que bien da río, amigo mío, amigo mío. Poi cambiamoci la dama alla moda brasiliana e canteremo ballando il babbaio. Babbaio, babbaio, babbaio, babbaio, babbaio, babbaio. Bayon, ba ba ba ba ba ba bayon, bayon, bayon, ba ba ba ba ba ba bayon. Tu che balla anch'io, il baion che viene dal rio, amico mio, poi cambiamoci la dama alla moda brasiliana e canteremo ballando il babbaio. Babbaion baion, babbaion baion, babbaion baion.